Ed eccoci qua su Region Air, come ogni martedì dalle 4 alle 5 la trasmissione degli studenti e vi terremo compagnia per un'ora intera, restate con noi. Siamo sugli 87.9, sempre la frequenza di Radio Onda Rossa, il nostro orologio segna le 4 e 14 ma va male, perciò guardate sul vostro. Andremo oggi a parlare del referendum del 12 giugno che ci porterà a decidere le nostre sorti sul nucleare e sulla privatizzazione dell'acqua, perciò se lasciare l'acqua, che è un bene fondamentale dell'uomo, pubblica, oppure se renderla privata, e su costruire delle centrali nucleari o no. E alle 4 e mezzo cambieremo completamente argomento. Sono arrivati adesso in studio i Nobles, dei ragazzi giovani musicisti che fanno rock blues, e sono qui per farci compagnia, e perciò saranno intervistati da me e ascolteremo qualche loro pezzo. Allora, oggi siamo qui a parlare di nucleare, a parlare di acqua pubblica, e parlando di nucleare non possiamo non parlare di Fukushima, quello che è successo in Giappone pochi giorni fa. Come sapete tutti, c'è stato questo terribile terremoto che ha causato uno tsunami. Da questo tsunami, oltre ai danni che abbiamo visto pochi anni fa anche nel sud-est asiatico, quindi la devastazione della costa, c'è un problema ancora maggiore, che è quello della centrale nucleare, una vecchia centrale nucleare di prima generazione. Adesso appunto questa centrale aveva al suo interno 6 reattori, e questi reattori stanno emettendo onde radioattive e si sta contaminando tutta la zona, diciamo, limitrofa. Speriamo che la situazione non peggiori. Ci sono i tecnici tecnologissimi del Giappone che stanno cercando di risolvere questa situazione, ma diciamo anche in Europa abbiamo vissuto drammatiche situazioni. Si ricorda Chernobyl degli anni 80. E diciamo, le onde radioattive, per quanto l'uomo possa provarci, sono infermabili e non rispettano nessun limite di nazione, non rispettano i mari, e quindi vanno dove le porta il vento. Oggi quindi volevamo parlarvi anche di questo, oltre che del nucleare in generale. Adesso vi presenteremo alcuni dati che a noi ci hanno colpito particolarmente. Allora, sì, sicuramente appunto in Giappone la situazione è davvero critica, e nonostante la pacatezza, diciamo, e la tranquillità del Giappone, dei dati e della tranquillità con cui i giornalisti giapponesi parlano di questo problema, sono in realtà abbastanza inquietanti. E sicuramente il nucleare è sempre stato un tema molto discusso per i pochi pro e i tantissimi contro che ha. E sono davvero scarse le argomentazioni di quelli che sostengono che il nucleare sia utile e sia la risorsa energetica, il modo migliore per fare energia con il costo minore per i paesi che decidano di costruire delle centrali nucleari. Appunto i pro che ci vengono detti da queste persone sono del fatto che una centrale nucleare non emette CO2, anche se poi emette delle scorie nucleari che non possono essere distrutte e che possono essere soltanto messe in stoccaggio per migliaia di anni in depositi e non sappiamo assolutamente come liberarcene poi. Poi si parla di vantaggi nel bilancio dei pagamenti, cioè sulla dipendenza delle economie dal petrolio, che sarebbe un modo per non dipendere più dal petrolio per avere poi altri problemi con l'uranio, quindi sono comunque delle prese in giro che ci vengono dette. E poi anche dell'uso del nucleare, che riduce la dipendenza occidentale dal petrolio medio orientale. Però appunto vediamo come questi non siano, diciamo, dei pro molto convincenti per noi. E proprio perché come primo contro c'è, cioè, quello delle scorie nucleari, che non possono essere smaltite in nessun modo e che soprattutto si prevede già che tra 50 anni l'uranio finirà e ci ritroveremo con le scorie su per il culo. Sì, diciamo che poi, oltre a tutti questi problemi che vi stavamo elencando, c'è sicuramente un problema economico, in quanto ormai siamo nel 2011, la scelta nucleare, se andava fatta, sarebbe stata comunque sicuramente erronea anche anni fa, ma altri stati come la Francia, come la Germania, che basano, diciamo, il loro fabbisogno energetico sul nucleare, hanno preso questa decisione parecchio tempo fa. Adesso sicuramente siamo in grado di costruire centrali nucleari della famosa terza generazione, che saranno sicure, ma come ci ha dimostrato il Pacifico, come ci ha dimostrato il Giappone, se la natura vuole, nessuna centrale nucleare è sicura. Adesso, per costruire una centrale nucleare, anche se il 12 giugno il paese si schierasse tutto completamente a favore, ci vorrebbero 12 anni, o coi tempi con cui costruiamo qualsiasi cosa in Italia, tra i 12 e i 15 almeno per farla partire, e una centrale nucleare può essere aperta solo 20 anni, quindi ci ritroveremo tra 30-35 anni, sempre per un discorso di generazioni future, con lo stesso problema che abbiamo oggi, quindi di un paese che non ha l'energia, che è dipendente per l'energia dai paesi del Nord Africa, dall'Ucraina. Sicuramente la soluzione non è il nucleare, ma sarebbe quella di sperimentare energie alternative. Si parla di fotovoltaico, si parla di eolico, e diciamo il governo con l'ultima finanziaria ha tagliato ulteriori fondi a queste fonti rinnovabili, e adesso puntano tutto sul nucleare. Nucleare, diciamo, gli ha detto anche un po' male, perché il paese pian piano stava assimilando questa cosa del nucleare, la stava facendo passare. Adesso Fukushima ha rimesso un po' tutto in gioco. Ha rimesso tutto in gioco perché la gente, speriamo che a questo referendum sia veramente trascinata dall'emozione per quello che è successo in Giappone, che veramente sono danni catastrofici, un paese molto ricco e molto stabile che si trova in ginocchio per, diciamo, volontà della natura e per errori che sono stati commessi nel controllo di queste centrali, evidentemente. Quindi forse anche questo aspetto economico è quello che non si fa passare agli italiani. Invece ci dicono che staremo meglio, che pagheremo meglio le bollette, ma se uno fa un'analisi, diciamo, più approfondita, si rende conto che solamente i grandi potenti di questo paese vogliono specularci. Sappiamo tutti i problemi che abbiamo nel costruire qualsiasi cosa, figuriamoci delle centrali. Ed è proprio questo il punto, insomma, gli studi economici parlano chiaro: per fare una centrale nucleare ci vogliono 20 anni, e dopo altri 20 anni che si utilizza si deve distruggere perché non è più sicura. Insomma, bisogna smaltire tutte quante le scorie e bisogna rendere sicura quella centrale, che comunque non può più essere utilizzata per produrre altra energia. E questo perché, come al solito, per far produrre profitti ai privati e alle aziende che entrerebbero a far parte dei costruttori di queste centrali, e che poi sarebbero gli unici a guadagnarci. Infatti è vero che le centrali nucleari producono una gran quantità di energia, a parte i rischi, però si deve anche contare il fatto che rappresentano una grande spesa. Tinkana bam bam, do you wish the arms of me a can? Do you defend celebrant fashion? No? Tell me, say one thing, and see if you understand. Who one thing, and see if you understand. One me, they might talk about me ambition. Say one me, who they might talk about me ambition. Come and say some of them ask me where me get it from. Tell some of them ask me where me get it from. I told them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, bam, hey, yo, who what? E passiamo adesso, dopo aver fatto questo breve dibattito, questa breve chiacchierata sul nucleare, passiamo all'argomento della presentazione dell'acqua, seconda parte del referendum del 12 giugno. Sì, appunto, il 12 giugno sappiamo che andiamo a votare per due motivi, due quesiti, uno sul nucleare. Tra l'altro sul nucleare volevamo aggiungere un'altra cosa che già c'era stato, diciamo, nel lontano 1987, un po' sull'onda emotiva di Chernobyl. C'era stato un primo referendum sul nucleare, un referendum che prevedeva tre quesiti, e gli italiani votarono. Fu molto partecipato quel referendum, il 60% dei possibili votanti andò a votare, che per l'Italia, per un referendum, è sicuramente un'alta frequenza, mentre si votò, circa l'80% degli italiani votò contrario al nucleare. E appunto oggi chissà come andrà a finire questo referendum del 12 giugno, speriamo tutti bene. Sabato c'è una grande manifestazione per l'acqua e per il nucleare. Comunque, ovviamente contro il nucleare e contro la privatizzazione dell'acqua. Arriviamo quindi alla seconda parte della puntata, a parlare della privatizzazione dell'acqua, che è il secondo quesito del 12 giugno. Privatizzazione dell'acqua che ci viene fatta passare come anche questo, come un provvedimento economico che ci farà avere acqua a tutti quanti, acqua in abbondanza. Non so, credo che l'Italia uno dei pochi problemi sia proprio... pochi problemi che non abbiamo è che l'acqua ce l'abbiamo, abbiamo molte fonti, e che sicuramente l'acqua è un bene primario dell'uomo e non va privatizzata. Questo sicuramente è quello che pensiamo tutti quanti noi ragazzi delle scuole, dei collettivi con i quali parliamo, e tutti noi di Region Air. Adesso sentiamo anche un po' che ne pensano gli altri. Sì, sicuramente l'acqua non è proprio la cosa che ci manca a noi, popolo italiano, e, piuttosto insomma ci manca un po' di verità, nel senso, a me, non so a voi, ma dà un po' fastidio che da un po' di tempo si parla di privatizzazione di svariati campi, dalla scuola, alla sanità, e adesso anche addirittura all'acqua, insomma. E il governo, lo Stato, parla sempre della privatizzazione come un metodo per avere maggior benessere, insomma, per poi vivere meglio, stare meglio, ma io mi faccio una domanda: come fa un privato a tenere costi più bassi dello Stato? Nel senso che lo Stato, come primo obiettivo, ha quello di rendere un servizio al proprio popolo, e il privato ha semplicemente l'obiettivo di lucrare, perciò di produrre utili. E perciò come faremmo ad avere una società privata che ci gestisce l'acqua, come già detto è un bene primario dell'uomo, e che ci tiene costi più bassi di quelli che potrebbe offrirci lo Stato? Boh. Poi appunto sull'acqua lo scandalo è davvero grosso, perché si conta che tra 10 anni più di 3 miliardi di persone saranno senza acqua, e i paesi occidentali stanno già sfruttando questo fatto, e quindi la privatizzazione diventa anche, appunto, come dicevi te, a scopi di lucro, ma anche proprio per togliere questo bene primario a paesi che tra 10 anni comunque si troveranno senza, paesi che invece questo problema ce l'hanno, è grosso. No, sicuramente il fatto che l'acqua mancherà si sente, nel senso è normale. Però appunto la politica di privatizzazione è fatta proprio per questo, di rendere l'acqua un bene commerciabile, e quindi di rendere un altro, di trovare altri scopi appunto economici di guadagno anche su un bene primario che dovrebbero avere tutti, e nessuno dovrebbe averlo come problema. Sì, sicuramente il discorso di mantenere l'acqua pubblica va affiancato a un discorso di risparmio. Naturalmente, insomma, lo spreco non ci deve essere da nessuna parte, e l'acqua sta veramente finendo, e perciò ci deve essere anche un ragionamento di risparmio. Però assolutamente la privatizzazione non è quello che vogliamo. Sì, adesso dopo questa chiacchierata tra di noi mandiamo un pezzo che è una pubblicità fatta da Greenpeace con alcuni artisti italiani contro il nucleare. Sentiamoci questa traccia. Yo, opportunismo. Avrete il vostro interesse a costruire cattedrali nel deserto. Le motivazioni sono sempre le stesse. E per capirlo non serve un esperto. Certo, c'è bisogno di energia, ma il nucleare no, non è l'unica via. Prima c'è il risparmio e la rinnovabile, alternativa praticabile. La sua memoria labile gli riesce facile dire alla gente dalla televisione: nessuno dice niente, non c'è altra soluzione. Io dico no, dico no. Io dico no. Io non ricordo niente, ma l'86 io ce l'ho impresso in mente. Era un sabato d'aprile differente, era il 26 e non uscì per niente. Era il mio compleanno, ma senza una festa. E l'Ucraina in tempesta, ci piove in testa. 2010, qua si sta in piedi. E i politicanti sono uguali ieri. Quelli seri quanti sono tutti un pacco. Per loro siamo zeri, dalle Alpi attacca. Hanno rifatto un patto scellerato e vecchio. È una scoria sotto il culo della storia. Ecco il futuro oscuro mi ingrigisce. Ecco il sole che mi sento vivo, è quest'uranio che mi impoverisce, e col vento giro alternativo. Chissà dove le fanno le centrali nucleari, mica vostre boutique a Monte Napoleone, nemmeno alla stazione di Bologna, dove già dall'altra volta sono sporchi di vergogna. Ma dove le faranno le centrali nucleari? I rig là, proprio sotto a casa mia, casa tua. Ho visto il mondo farsi bianco all'improvviso, aperto il cielo ma non era il paradiso. La mia memoria svanisce mentre il pianeta sparisce. Dica che sì, ma dica pure che no. Dica che sì, da una massa imbruglione. E adesso parleremo con un ragazzo di Lega Ambiente, Giorgio. L'abbiamo chiamato per fare una corrispondenza. Lui si occupa di nucleare. Senti Giorgio, mi senti? Sì, ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie, senti, ti volevamo chiedere voi come vi state occupando di questo referendum del nucleare e diciamo della privatizzazione dell'acqua. Raccontaci un po'. Ma beh, le attività, appunto, come hai detto anche te, sono tante, perché diciamo il referendum che si farà a giugno ci chiama a votare su due questioni, a parte quella del legittimo impedimento, che sicuramente anche quella è importante, però diciamo su due questioni ambientalmente molto importanti: la prima sulle risorse idriche e la seconda sul nucleare. Noi diciamo su entrambi i fronti siamo impegnatissimi come associazione e stiamo facendo diverse attività sia a livello nazionale che a livello territoriale. Sull'acqua chiaramente ci appoggiamo e facciamo parte del comitato referendario che è stato costituito appunto dal Forum dei Movimenti per l'Acqua Pubblica, per cui la nostra campagna di mobilitazione si fa appunto insieme a quella di tutti i movimenti per l'acqua pubblica. Sul nucleare invece come Lega Ambiente abbiamo un ruolo di primo piano, perché insomma è l'attività che poi ha contraddistinto da sempre anche la nostra associazione, per cui siamo stati tra i promotori di un comitato nazionale referendario e stiamo adesso lanciando a livello regionale, a livello cittadino, a livello di quartieri, dei comitati locali per spiegare alla gente cos'è il nucleare, qual è il rischio che corriamo e perché è importante andare al referendum a votare sì per non avere il nucleare in Italia. Sì, sicuramente un problema è il fatto che, come stavamo dicendo prima in trasmissione, la gente è un poco informata sul nucleare. Su questo probabilmente le varie associazioni si dovranno impegnare per fare banchetti, gazebo, per spiegare veramente alle persone quali sono, diciamo, le prospettive economiche che ci dà il nucleare e soprattutto quelle magari della privatizzazione dell'acqua. Sì, diciamo sull'acqua forse anche tutta la campagna che si è fatta di raccolta delle firme, per cui 1.400.000 cittadini che hanno firmato per chiedere il referendum e tutta la campagna, i banchetti che sono stati fatti dovunque all'interno di feste, manifestazioni, incontri, dibattiti, è servita a far capire di più alla gente appunto cosa vuol dire privatizzare la risorsa idrica e soprattutto l'importanza di questo referendum. Sul nucleare invece, come dicevi anche te, il panorama è ancora molto caotico. Purtroppo il governo non aiuta, perché sul rilancio di questo programma nucleare non dà informazioni chiare, non dà informazioni certe, e d'altra parte c'è appunto un tema di cui si parla poco, in maniera approfondita, in maniera appunto diciamo seria e scientifica. Se ne è tornati a parlare molto in questi ultimi giorni, purtroppo non per un buon motivo, ma per l'incidente giapponese che ha richiamato con forza, in maniera molto violenta, l'attenzione sui problemi di sicurezza del nucleare. Noi come Lega Ambiente lo stiamo facendo appunto dal giorno in cui è stato rilanciato in Italia il programma nucleare, ovvero dall'ottobre del 2008. Abbiamo lanciato una campagna aperta, per cui insomma che ancora non si è mai chiusa, in cui facciamo incontri di informazione nelle scuole, lo facciamo nelle piazze, facciamo delle feste, dei concerti in cui portiamo all'interno il tema del nucleare e spieghiamo perché oggi, se l'Italia tornasse al nucleare, farebbe una scelta sbagliatissima, sia sul fronte economico che sul fronte energetico che sul fronte della sicurezza dei cittadini. Lo stiamo continuando a fare, chiaramente abbiamo bisogno del sostegno e del supporto di tutti quanti, per cui approfitto anche della vostra trasmissione per chiedere a tutti insomma un aiuto, sia per invitare tutti quanti ad informarsi sul nostro sito, ma anche sul sito del comitato che si chiama fermiamoilnucleare.it. Venite a trovarci alla manifestazione di sabato sull'acqua pubblica e sul nucleare, in cui ci saranno numerosi banchetti informativi. Sicuramente parteciperemo a tutti quanti. E poi aiutateci appunto a informare quanta più gente possibile, perché il referendum di giugno, sia per l'acqua che per il nucleare, deve essere vinto, quindi deve essere raggiunto il quorum, quindi ognuno di noi deve portare a votare almeno altre 10 persone per riuscire a raggiungere il quorum e riuscire a vincere questa sfida ambientale. Sì, comunque noi sia con la radio oggi ne abbiamo voluto parlare, perché pensiamo che sia un tema veramente importante, anche nelle scuole comunque ci stiamo informando per organizzare assemblee, per partecipare sicuramente al corteo del 26, se ne è parlato anche nell'assemblea cittadina con tutte le scuole, che è sicuramente una giornata importante per lanciare un segnale. Guarda, noi ti ringraziamo per la corrispondenza, ti auguriamo buona fortuna a te e a tutta Lega Ambiente, vi ringraziamo diciamo per il lavoro che fate, sia di sensibilizzazione sia di proprio come movimento per la difesa dell'ambiente. Grazie a voi di averci invitato e appunto per qualsiasi dubbio o informazione ne volete avere, insomma, siamo sempre a disposizione. Grazie. Vediamo tante, sabato. Giorgio, ciao, grazie. Ciao, buon pomeriggio. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Everybody needs somebody. Someone to love, sweetheart to miss, sweetheart to miss, sugar to kiss, sugar to kiss. I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you, you. In the morning, you, you, you. When my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When the baby mistreats me, I'll never. Allora, ricordando le mobilitazioni appunto che in questi giorni ci saranno contro il nucleare e contro la privatizzazione dell'acqua, intanto il corteo di cui abbiamo parlato più volte adesso durante la trasmissione del 26, sabato 26, alle ore 15 a Piazza della Repubblica. Corteo appunto in difesa dell'acqua pubblica e contro il nucleare, e poi domani in tutte le principali scuole di Prati e non solo, e in tutto in generale in tutta la zona di Roma Nord ci sarà volantinaggio con tanto di mascherine contro il nucleare, con lo slogan diciamo attivi oggi o radioattivi domani, in seguito al a un incontro che si sta svolgendo alle Pleiadi nell'Hotel Columbus in via Damiano Chiesa, indetto dall'European Nuclear Society, appunto per parlare, dove esperti parlano del nucleare e parlano dei pro del nucleare, quindi questa iniziativa che si terrà domani all'ingresso delle nostre scuole e in generale nei punti focali di tutta la zona di Roma Nord. Perfetto, perciò insomma, se domani non vogliete essere radioattivi, partecipate naturalmente a queste manifestazioni. E niente, dopo questo lungo, no non è vero, non lungo, ma breve discorso sul nucleare e l'acqua, insomma, avervi detto le nostre opinioni su questi due argomenti che al giorno d'oggi ci toccano molto, e sono finalmente entrati in regia i Nobles che abbiamo invitato oggi per intervistare e per ascoltare un po' della loro musica, ma innanzitutto vi do il benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Senti, beh, prima di parlare di musica noi vi volevamo un attimo chiedere, insomma, se voi vi interessate, insomma, avete... vi siete un po' informati su questi due temi su cui si andrà a votare, e se avete un po' riflettuto e che posizione avete preso, oppure se avete delle idee che anche voi volete esprimere? Beh, sicuramente la scelta del nucleare è una scelta ambigua. Abbiamo già parlato del fatto che esistono sia dei pro che dei contro. Sicuramente il fatto che sia pubblicizzata come energia pulita, forse per quanto riguarda l'atmosfera potrebbe essere vero, ma per quanto riguarda invece le scorie radioattive ricordiamo che è un tipo di inquinamento che sull'asse temporale occupa, è veramente pesante, nel senso veramente forse il genere umano si estinguerà prima delle scorie nucleari. Per questo insomma bisogna riflettere molto. Poi diciamo anche l'Italia, cioè, se vogliamo fare un paragone con Fukushima, anche l'Italia è un territorio ad alta pericolosità sismica, perciò insomma abbiamo già visto che nonostante le garanzie di sicurezza offerte da uno stato come il Giappone, bisogna riflettere pure su tutto il pericolo delle speculazioni che esistono in Italia, insomma, per quanto efficienti possano essere queste centrali e quanto sicure. Perciò per quanto riguarda la mia opinione, io se potessi votare, perché non sarò ancora diciottenne, al referendum voterei no, però insomma sarà a voi scegliere, questo è il nostro consiglio. Va bene, e adesso niente, parliamo di cose più leggere, andiamo al campo cultura, al campo musica, ci vogliamo prima ascoltare un vostro pezzo e poi ci faremo una chiacchierata, va bene? Perfetto, perfetto. We'll be right back. con grande sforzo ci stavano cercando di spiegare il significato di questa canzone, ma prima di passare a questi discorsi molto profondi, non lo so, presentatevi. Sì, perfetto. Allora, io sono Andrea e sono il bassista. Io sono Lorenzo, sono un chitarrista. Poi oggi ci manca la cantante, che però c'aveva ripetizioni, quindi io sono la batterista Ondina e infine... E ci sono anch'io, che sono l'altro Lorenzo, che è sempre sulla chitarra, siamo. Sempre sulla chitarra, fantastico. Diciamo, il pezzo che avete ascoltato... esatto, che penso che sia una cosa molto curiosa. Si chiama Cannibalism Blues e diciamo... è un pezzo che critica la degenerazione del principio di libera concorrenza economica, che nella società attuale insomma ci ha fatto diventare un po' cannibali tutti quanti, nel senso che è come se in ogni gesto della nostra vita, in ogni soldo che spendiamo, dietro rischiamo di cadere in speculazioni e di asservirci in qualche modo a dei giochi di potere di cui neanche magari ci immaginiamo. Perciò in questo modo critica un po' questo modo di intendere la libertà, anche come possiamo dire la libertà in, certo, in senso economico, Anche il modo in cui questa libertà ci viene fatta vedere, no? Ah, certo, sì, diciamo anche se magari ai tempi di Adam Smith poteva essere un principio sovversivo per quanto riguardava l'economia centrata nelle mani del re e di una cerchia piccola di aristocrazia, diciamo invece per quanto riguarda i nostri giorni è un po' degenerata. E perciò niente, questa era l'idea del pezzo. Noi ovviamente, come ci siamo stati presentati, a noi ci piace il blues, siamo un po' nostalgici da questo punto di vista, però è musica che ci piace, anche se magari non ci permetterà di sfondare su MTV o per questi canali, magari. Ma ci stiamo lavorando, no? Con Bad Friend. Assolutamente. Sì, infatti vi siete presentati a noi come gruppo rock blues, ma diteci, cioè, fino adesso abbiamo avuto in studio delle persone che facevano, insomma, diverse persone che si sono buttate su generi molto, diciamo, difficili in un certo senso, non lo so, alternative rock, spinto un po' sulla psichedelia, poi anche dubstep, elettronica, eccetera. Il vostro, mi verrebbe da dire, non correggetemi naturalmente se sbaglio, che è un genere un po' più classico, che forse è più semplice da ascoltare, ma comunque non... è un genere morto, quasi. È un genere morto, sicuramente. Sì, sì, sì, sì. Sì, comunque, insomma, guarda ancora un po' al passato. Ma su questo, voi come... come vi ponete, diciamo? Ci avete detto che siete dei ragazzi giovani, non avete neanche 18 anni per votare al referendum. Quindi come vi trovate voi a dover fare un genere che, appunto, per definizione, purtroppo adesso è detto morto? E come vi trovate voi? Siete incazzati, no, giustamente. No, molto incazzati. Il fatto è che il genere classico, no? Come si può definire il blues, non può essere classico, ma è tipo colto, nel senso... che è da capire. Non, sì, è una musica che si comprende immediatamente, no? Che si comprende nell'immediato, e quindi tu non hai, come in musiche magari più moderne, dove la comprensione viene un po' a mancare, no? Qui è già compreso, cioè è immediato quello che io ti già, sto dicendo. Già digerito dal passato. Diciamo. Sì, e quindi sembrerebbe essere una musica più facile da ascoltare, ma contemporaneamente... quasi la più complicata da fare, no? Perché per fare una cosa facile, cioè per far sì che una cosa diventi facile all'orecchio di un'altra persona, ebbene, deve essere qualcosa di molto complicato. Quindi sì, si può dire che è difficile, si può dire che è facile. Se posso fare una citazione, un grande chitarrista degli anni 60 che fa di nome Hendrix, diceva appunto che il blues è facile da suonare, da ascoltare, ma difficile da capire. E comunque volevo dire che noi nasciamo come gruppo blues, ma cerchiamo di sperimentare ogni volta nuovi generi, no? E questo pezzo infatti cerca anche di rimanere con le radici del blues classico, ma poi abbiamo anche scritto altri pezzi che poi dopo sentiremo, che si vanno a sperimentare anche un nuovo genere. Anche molti dei nostri pezzi in via di elaborazione vanno a sperimentare questi nuovi generi, tipo il prog. Sì, o anche certo, comunque la riscoperta del passato, insomma, in parte ci deve essere, ma comunque la cosa più interessante, immagino, poi insomma non vi nascondo che anche sono musicista, è quella di sperimentare, perciò di mettere del esatto. proprio in ogni cosa che uno suona. Certo, certo, tipo prima hai detto psichedelic, no? La musica psichedelica, se ci pensi, qualsiasi tipo di musica fatta in un certo senso è psichedelica, cioè se tu la elabori in una certa maniera, quel tipo di musica diventa psichedelica a priori da quello che è poi, cioè nel senso non conta quello, e quindi la nostra si può definire anche così, cioè è come la musica di tante altre persone. Certo. E vabbè, andiamo, insomma, ci hai parlato di pezzi che puntano a sperimentare nuovi generi, delle novità, andiamoli ad ascoltare. Questa è The Trip is Over. Oh, E quindi continuiamo questa chiacchierata con i Nobles. Niente, io vi volevo chiedere una cosa. Prima parlavi di sfondare, no? Stavi dicendo comunque un genere con cui è difficile sfondare, insomma. Vi volevo chiedere se diciamo qual è il vostro obiettivo. Di solito uno, insomma, si pone degli obiettivi, a seconda di quello si muove. Perciò se uno decide di sfondare nel mondo della musica, sicuramente si comporta in un modo diverso rispetto a se uno vuole fare musica semplicemente per passione e per farsi conoscere, perciò niente, per avere il piacere di trasmettere qualcosa con la propria musica. E, perciò niente, volevo sapere appunto come vi muovete, se cercate dei, non lo so, dei concorsi, cercate delle, una casa discografica, oppure se semplicemente andate nei locali per suonare, per farvi conoscere dalla gente, per divertire, per trasmettere, insomma, le vostre emozioni attraverso la musica. Beh, sicuramente l'obiettivo primario è il divertimento, perché sia il divertimento che poi l'approfondimento da un punto di vista anche, se vogliamo, didattico, di mettere alla prova quello che studiamo, perché comunque studiamo tutti il nostro strumento in una scuola o seguendo delle lezioni comunque. Perciò è un modo di applicare la teoria che si studia a parte. E per quanto riguarda come ci muoviamo noi, noi diciamo abbiamo un'attività che è un po' a intermittenza di live, che però ultimamente si sta intensificando. Diciamo che un po' il problema che abbiamo affrontato per quanto riguarda i locali è un po' la cultura odierna, per esempio il fatto che per esempio il padrone del locale chiede molto più spesso quanta gente portate piuttosto a quanta musica fate, il fatto che facciano pagare l'ingresso 5 euro, comunque marciando sopra il fatto che essendo un gruppo di giovani si portano gli amici e comunque c'è sempre un po' di persone, mentre per esempio in città come Praga, dove io ho fatto questa esperienza quest'estate, proprio la cultura proprio di Piazza della Birra con la musica live nel locale, diciamo, è una cosa normale, non è che ti fanno pagare l'entrata, hanno quasi tutti i pub, hanno già la strumentazione e diciamo questo anche ovviamente un'opportunità di genere in una città come Praga porta anche i giovani a voler proprio intraprendere la strada della musica, ad arricchire l'underground. Perciò se pensiamo a gruppi come i Pink Floyd che hanno cominciato a suonare appunto dai locali come questo, ovviamente in una situazione come quella di Praga magari c'è molto più un'incentivazione rispetto che qua. Certo, proprio questo è il punto, nel senso, se mi permetti di interromperti, l'incentivazione in posti dove, insomma, la musica è proprio alla base della cultura della città, perciò dove è semplice esprimersi, dove è semplice suonare, dove è semplice suonare sia in privato che in pubblico, perciò davanti a un pubblico, sicuramente favorisce la formazione di nuovi artisti. Perciò se uno ha una fantasia di diventare musicista, è molto più incentivato a intraprendere quella strada, perché ha la strada spianata. Ma insomma, a proposito di questo, voi nonostante nella nostra città sia difficile trovare delle date, esprimersi, fare dei concerti, ma insomma con molto sforzo si riesce comunque a cavarsela, e perciò di trovare delle date. Voi avete dei concerti in vista? Sì, per esempio suoniamo tra 2 giorni, giovedì, suoniamo all'Area 137, un locale che ha cambiato gestione da poco su Via Le Ostiense. Via Libetta. Via Libetta. Sì, tra Via Libetta e Via Le Ostiense, insomma. E vabbè, si trovano comunque dei contatti, bisogna andare a parlare con i locali, eccetera. Però sì, non ti pagano niente, però ci sono delle serate che comunque introducono i giovani alla musica, diciamo. Mm-hmm, ho capito, certo. Insomma, per fortuna dei posti così ancora esistono. E, se dici. Posso aggiungere una cosa... In Italia la mentalità italiana, quello che manca è proprio la creatività. Se noi andiamo a vedere, I fatti sono che nei pub, insomma, nei locali in cui noi abbiamo sempre suonato, la prima domanda è: quante cover, quali cover fate? Non sei mai spronato, non sei, cioè noi ragazzi italiani comunque in Italia non veniamo mai spronati alla creatività, a quello che noi sentiamo. Cioè, la creatività è Sanremo, nel senso è questo. Quella è la creatività. Nel senso certo. È quello. È vero. Un problema. Vabbè, adesso Lorenzo ci presenterà l'ultimo pezzo, che si chiama The Conscience. Sì, non so bene se in inglese si può dire The Conscience, però dovrebbe essere la coscienza. E no, vabbè, questo è un pezzo che è un po' differente da quelli che abbiamo sentito prima. Cioè, non è troppo blues, è un po' più, magari, appunto, questa creatività che abbiamo... diciamo, parla un po' del fatto che non sappiamo bene dove viviamo. Ho capito, interessante, andiamo ad ascoltare. Purtroppo le 5 sono arrivate, vi dobbiamo lasciare dopo questo pezzo al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. Perciò vi salutiamo, vi ringraziamo per averci fatto compagnia in questo quarto d'ora, in questi 20 minuti, e vi auguriamo tantissima buona fortuna. E ripetiamo l'evento di giovedì all'area 137 in via Ostiense, via Ostiense 137 alle 22. Cercate, alle 22, perfetto. E li trovate naturalmente anche su internet, sul MySpace, loro sono i Nobles, li trovate anche su Facebook, e alla prossima. Ed anche questo martedì Region Air vi saluta, vi dobbiamo per forza salutare per lasciare lo spazio alle femministe e le lesbiche del martedì autogestito. Ci rivediamo martedì prossimo di nuovo dalle 4 alle 5 per discutere di un altro argomento e per intervistare un altro gruppo di giovani. E vi ricordiamo la manifestazione del 26, questo sabato, a Piazza della Repubblica alle 15. Ciao!